Magenta, il problema è dell'Inter e di Conte è che a Conte non interessa che vinca l'Inter, Conte deve vincere lui, il suo 3-5-2, le sue idee, il suo calcio, il suo modo di allenare. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Alla verticale di Valverde, nella zona dove può salire ancora il Reale, il tocco dentro a Chiarodrigo per il 3-2 sull'apertura di Vinicius, ma l'Inter ha chiuso malissimo qui. Ma questa nel bene e nel male è la mia Inter, anche perché io sono l'allenatore, quindi non so quante squadre siano venute qui a Madrid a giocare questo tipo di partita, a rimontare due gol, due situazioni tra virgolette regalate, no? Da parte nostra. I risultati di quest'ultimo periodo non premiano per quello che stiamo facendo, per gli sforzi che i ragazzi stanno facendo, però al tempo stesso ci dimostrano che i dettagli devono essere curati, a volte i dettagli spostano la partita. Penso ci fosse un fallo su Hakimi da parte di Mendy, e su un calcio da fermo c'è una marcatura che lì deve essere fatta in maniera ferrea. C'è una crescita esponenziale da parte della squadra. Oggi Real Madrid aveva parlato di finale. Di solito Real Madrid quando parla di finale non le sbaglia. Detto questo, niente, torniamo a casa sicuramente con un risultato penalizzante. Claudia Schiattone, Roberta Frisani, redazione, regia. Ci tenevo, poi vi date il paraculo quello che volete, a fare i complimenti a mio amico Pardo per la telecronaca di ieri. Ma hai fatto venire un po' di ansia? Però mi è piaciuta molto. Ma l'ansia fa parte del calcio, ragazzi. Se togliamo pure l'ansia, nel senso, no, uno si vede un bel film di quelli sentimentali dove già sa che tanto poi alla fine due si sposano, oppure non si sposano. Abbiamo smesso, molto meglio Real Madrid. No, c'è tempo per tutto. Però sì, ieri però un po' di delusione, te lo dico sinceramente, sì. Ovviamente da osservatore delle squadre italiane lo dico, altrimenti lì vale il solito principio, insomma, sì. Ci si augura il meglio per il calcio italiano, ma questo in generale chiunque giochi, chiaro, Inter, Juve, Atalanta o Lazio, non cambia assolutamente nulla, e si valuta e si commenta in maniera oggettiva. Non sono interista, ma mi sono girate le palle, così come spero che la Juve vinca stasera con Ferencváros, così come spero che la Lazio risolvi in primo luogo i suoi casini. Senti, fammi un radio tweet che poi parliamo di tutto questo. Lo faccio non tanto per Maradona, ma per quell'immagine che ti avrei visto, per quel video che avrei visto di quel corteo di persone che accompagnava l'ambulanza che portava Diego verso questa operazione che ci dicono fortunatamente riuscita. E io credo che molto del mistero, della bellezza del calcio sia veramente racchiuso in quell'immagine lì, cioè vedere un popolo che accompagna anche nel momento più difficile, più doloroso, un proprio eroe, proprio rappresentante anche. Sì. Un proprio figlio verso un viaggio così importante, così delicato. Insomma, quindi oltre lì bocca al lupo, che mi pare addirittura scontato, però quell'immagine lì mi ha colpito molto. Sì, l'hai ricordato diverse volte, hai fatto benissimo nella telecronaca di ieri sera, che comunque l'ansia era anche e soprattutto dovuta a quello che stava succedendo. Pare vada tutto bene, questa sì, è speriamo. Una delle poche buone notizie di giornata o di serata. Ciao Filippo Maria Ricci, buongiorno. Buon pomeriggio. Hola. Eccolo qua. Senti, no, noi ci stiamo un po', insomma, ripigliando dal fatto che 8 gol subiti in una sera sola in Coppa io non me li ricordo, forse sì. Bisogna tornare agli incubi inglesi della Roma. Sì, sì, una serataccia, peccato soprattutto qua a Madrid. L'Inter sì. Poteva vincere, aveva, questo è un Madrid, no, sempre sull'orlo della crisi di nervi, rimonti. Insomma, ce l'aveva lì e una vittoria qua sarebbe stata devastante per il Real Madrid, potenzialmente decisiva, dopo ce l'avevi in casa. Insomma, sono tanti i rimpianti, è una partita giocata anche bene per lunghi tratti, però poi l'Inter è mancata nei momenti decisivi, tanto in attacco come in difesa. E sì, insomma, la frase di Conte quando dice il Madrid aveva detto che era una finale e le finali le vincono, sì, è così, e lì dà un po' il tono della grandezza anche. Poi il Madrid in realtà in questo momento è una squadra malata. Anche esci di lì, esci da Valdebebas arrabbiato, non esci con buoni segnali, ragazzi. Io sto discorso che gioca bene, che sì, va bene, oppure che sono soddisfatto, però una vittoria su 7 comunque è indicativa di una squadra che non sta benissimo, insomma, devi vincere alla fine. Ieri sera, adesso per l'Inter è complicatissimo, io la vedo, sì, casino, la qualificazione mi sembra problematica, poi spero di sbagliare, però insomma, sì, è giocato bene, ma hai perso 3-2 con una squadra appunto piena di problemi, insomma, chiaro, c'è stato anche l'aiutino, perché col Madrid spesso può succedere. Vabbè, perché quella spinta di Hakimi, ma sì, però la spinta di Mendy è evidente, però lo lascerei stare nel disegno complessivo, no? Pierluigi, cioè, esatto, io credo, esatto, che anche Pierluigi, ascoltandolo, anche lui avesse avuto la sensazione che l'Inter prima di pigliare il gol del 3-2 avesse la partita in mano, no? Pier, mi è sembrato di sentirlo. Sì, io l'ho segnalata e l'ho lasciata ovviamente all'analisi di Graziano Cesari, che ovviamente la fa con le lenti, con la possibilità di andare, insomma, non con l'assillo della diretta, però poi rimane l'errore, secondo me, tecnico, concettuale, al di là della spinta. Esatto. Io credo che la cosa è che l'Inter dà sempre una sensazione, e ieri tutto sommato l'ha data, perché poi è vero che il Real era messo male in difesa, ma l'Inter era senza il suo fuoriclasse, usiamo le parole col... In questo momento Lukaku sta diventando, se non un fuoriclasse, comunque un giocatore decisivo. Cioè Lukaku sta all'Inter probabilmente come Ronaldo sta alla Juve o come Ibra sta al Milan, o quasi, non c'è molta differenza, quindi questo non va dimenticato. Però insomma, io dico pure che tante volte, anche in tempi recenti, noi abbiamo visto l'Inter arrivare alle grandi partite, alle partite che veramente possono dare una svolta, e poi c'è sempre qualcosa che manca. E questo vale la finale di Europa League, anche, dai, no? Vero. Sì, la finale di Europa League, anche se lì forse secondo me è quasi invece l'esempio contrario, perché comunque prima della finale c'è stata la semifinale, c'è stato i quarti, cioè lì onestamente non mi sento di rimproverare molto, però sì, certo, no, finale, però devi, però devi vincere, anche cioè, per dirti, lì, le partite con lo scontro diretto con la Lazio di febbraio, quello con la Juve di marzo, il derby, cioè sembra sempre che questa squadra sia... E poi comunque adesso le vittorie sono poche, insomma, le vittorie delle ultime partite cominciano ad essere poche per quello che è il potenziale di questa squadra. Due punti sono pochi nel girone di Champions League. Sette, appunto. Insomma, quindi, solo col Genoa ha vinto. Quindi veramente, insomma, secondo me c'è qualcosa che manca in un potenziale che si intravede, che si è intravisto anche ieri sera, perché poi, insomma... Ci sono stati anche momenti scintillanti sul 2-2, ma maggior ragione, delle possibilità. Io dico a maggior ragione. Sono stati quei due cambi, soprattutto sì. Si concentra vabbè, quando si cambia si rischia sempre, si concentra molto su Barella, ma in quel momento secondo me era soprattutto Perisic, poi Barella era ammonito, era soprattutto Perisic che stava trovando una sua pericolosità, al di là del fatto che poi i cambi vanno fatti, insomma. Sì, sulla lettura di Conte io avrei degli interrogativi da pormi. Secondo me i cambi sono stati, magari ci stavano, magari non quelli, magari pure prima. Perché il Real Madrid a me sembrava onestamente in difficoltà, e il Real Madrid, Phil, ha confermato di essere una squadra comunque questa versione vicina al capolinea. È l'Inter che si è fatta buttare giù dall'autobus. Esatto, cioè attenzione, ci sono, qua ci sono dei capolinea peggiori, anzi dei capilinea peggiori. Dei capilinea. No. Sì, insomma, in periferia, sì, scomodi sotto la pioggia. Però sì, qua l'analisi che si fa qui a Madrid è che comunque questo Real Madrid la Champions non la vince. Poi dopo magari le cose cambiano e miglioreranno, e magari, cioè, però trovano Asensio e Hazard, che ancora non li trovano, i due ragazzini brasiliani continuano così. Però in queste condizioni Madrid non la vince. E ti dico, sempre è vista dal di fuori, quindi da Madrid, è chiaro che nel momento in cui Eriksen non gioca un minuto e entra Nainggolan, e a chi non segue l'Inter tutti i giorni, perché magari appunto ovviamente fa abbastanza impressione. Poi io sappiamo perché, come si arriva a questa situazione, però anche lì ci sono delle considerazioni da fare, insomma. Eriksen è uno che ha fatto la finale di Champions, è arrivato con certe aspettative e niente, non si è trovato. E ieri sera, in un palcoscenico così, una partita veramente da dentro fuori, c'è anche Sergio Ramos, dopo l'ha detto, cioè qua era vita o morte, insomma. All'Inter è mancato, esattamente, oltre a Lukaku ovviamente, è mancato, ecco, questa forza, questo colpo che hanno le squadre che poi dopo vincono e si pongono in Europa. Ti ha convinto la gestione dei cambi di Conte, Filippo? Non tanto sinceramente, però poi io ti dico, non è che seguo, come si può dire, l'Inter tutti i giorni, e Conte avrà sicuramente le sue ragioni, insomma, no? Però ecco, io quando poi vedo in campo, cioè Nainggolan non mi sembra, cioè pensando sempre in chiave europea, in chiave di progressione nel girone, un girone complicato, stai giocando contro il Real Madrid, cioè è lo stesso Vidal, sinceramente. È un giocatore che ha dei limiti per me enormi, soprattutto messo così indietro, perché al Barcellona lui, che era criticatissimo, no, dai puristi, e va bene, e io lì non ero tanto d'accordo con le critiche, però Barcellona veniva utilizzato come incursore, sì. Era quasi, cioè avrebbe giocato nell'Inter di ieri al posto di Perisic. Esatto, e tutti dicevamo è il giocatore che manca, il Vidal incursore del Barcellona, sì. Dicevamo è il giocatore che manca all'Inter, no? Cavolo, esatto. Gli manca però è messo così indietro, ieri ha sbagliato 3 palloni consecutivi, spesso si girava e boom, buttava via il pallone, soprattutto questo girone, ci metto anche la partita col Borussia Mönchengladbach, ma ripeto, stiamo parlando di 3-4 situazioni, non è stiamo parlando di 100, però è chiaro che dai giocatori di maggiore esperienza ti aspetti che nei momenti importanti, nelle partite importanti, non ti tradiscano. Allora, sappiamo quello che è successo col Borussia Mönchengladbach, e anche ieri in alcune circostanze mi sembra che l'irruenza, la voglia di spaccare il mondo, che è una qualità di questo giocatore, adesso non è che sia diventato un brocco, è sicuramente una sua qualità, però in questo momento insomma sta un po' faticando. E poi Pier, in questa Inter, anche perché se tu sali, cioè sali alla spagnola, scusate, esci, diciamo, sì, esatto, bueno, esci dall'area a palla al piede, no? Sì. Esatto, scusate, però, cioè, ormai, e dico, palla al piede, vuoi giocare sempre il pallone, quando poi il pallone arriva a Vidal, in almeno 3 o 4 occasioni, viene poi invece, diciamo, calciato, e allora si interrompe anche quel flusso di passaggi e di costruzione della manovra. Per cui a me è sembrato un po' un corpo estraneo in alcune situazioni. E allora dico, in quel caso può essere la sua forza, la sua enorme vitalità, la sua carica, sono per me più positive e più sfruttabili dalla squadra 30 metri più avanti. Però non lo so, insomma, io poi, cioè, parlo anche per quello che, diciamo, quello che è stato il giocatore qua a Barcellona, dove era utilissimo, però appunto come incursore. Anche con Cile. Mentre parli mi sta tornando in mente il WhatsApp vocale, a proposito, 349-238-6666, e vi invito, 800-24-0024 con le telefonate, il WhatsApp vocale con cui abbiamo aperto questo programma, sì, del Conte, sì. Vuole vincere con il suo calcio, è un individualista, così come sono individualisti grandi campioni, da Ronaldo a... Beh, Ibrahimovic in questo periodo un po' meno, però... A Messi, insomma, sono loro che si tirano dietro tutto il resto, ma prima viene l'io e poi magari il noi. Però al di là della filosofia spiccia, volevo tornare ai cambi di Conte. Lo chiedo anche a Pierluigi se la gestione della partita, i cambi che ha fatto come tempistiche, come interpreti, sia stata convincente. Ti dicevo, io quando ho visto Perisic uscire mi ha fatto un po' strano, perché era un momento in cui veramente Perisic, al di là del gol, stava dando un grande contributo, questo mi sembrava, lo dico proprio sinceramente, però insomma, poi gli allenatori hanno sicuramente le loro motivazioni, insomma, il cambio con Sanchez poteva nascere da un segno di personalità di provare a vincere la partita, però non sempre se togli un centrocampista offensivo e metti un attaccante poi la partita la vinci. Uh-huh. Non lo so, io trovo che ci siano alcuni difetti irrisolti in questa squadra, soprattutto dal punto di vista difensivo in questo momento, e poi di un po' di prevedibilità del modo di giocare. Poi ieri, ripeto, non può essere un alibi, però Lukaku è fondamentale. Anche se Lautaro ha giocato la miglior partita stagionale. Un'altra partita sarebbe stata. Perché è veramente un giocatore in questo momento devastante, secondo me. Per però la squadra. Torniamo al discorso di prima: Lukaku c'era in altre partite che poi non sono state vinte lo stesso, no? Quindi, però, ieri averlo qua a Valdebeva sarebbe stato proprio un'altra storia, quello sì. Sicuramente. Allora, dato che dobbiamo fermarci un attimo, lo facciamo subito, poi continuiamo su questo discorso, lo allarghiamo pure anche all'Atalanta, anche a quello che stiamo aspettando, cioè di vedere la Juventus stasera, una partita oggettivamente che non può diventare difficile contro in casa del Ferencváros, una Lazio sì, molto chiacchierata. Bene, tutto questo anche con voi, 800 24 00 24, tra pochissimo. Ancora, è una sola, ve l'ho detto mille volte, Conte, è una sola. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. Antonio, c'hai la memoria corta, ricordati la Juve con la standing ovation di Del Piero al Bernabeu. Ricordati tu e i tuoi step, ma che vuoi steppare? Beh, sono contento, non so quanti vengono qua a Madrid e rimontano due gol e comunque abbiamo perso. E poi insomma abbiamo giocato bene, due gol loro nati da due regali nostri. Ah, per fortuna che lui è l'allenatore. È riuscito a dare la colpa ai dettagli attraverso i quali deve passare la crescita della sua squadra. Ma un'autocritica mai? È chiaro che oggi le opinioni non sono propriamente pro Conte, però Pierluigi... No, ma c'è un tema secondo me di aspettative, di vogliamo dirla brutalmente, anche un po' di stipendio, perché comunque lo stipendio è infinitamente superiore rispetto a quello degli altri allenatori della Serie A, di rosa, che comunque la rosa che gli sarà consegnata è una rosa almeno sulla carta molto molto competitiva, e poi se vogliamo anche di comunicazione, nel senso che comunque lui secondo me è una cosa ammirevole, e come ben sai, io forse sono naif, ma penso che sia una posizione autentica, non sia una finta che lui fa tutti i giorni davanti alle telecamere. Ha cominciato un percorso completamente diverso, molto più conciliante, molto più sereno, quindi tutto questo insieme di cose fa sì che però poi quando i risultati non arrivano, insomma, la pressione aumenta. Sarebbe assurdo se non fosse così. No, chiaro, però volevo sottolineare, volevo tornare a ieri sera e anche al dopo partita, no? Perché ho seguito con attenzione, dopo la tua telecronaca allo studio di Canale 5, c'era Ferri, Riccardo Ferri, che sentiamo spesso, è uno dei nostri interlocutori privilegiati, che sottolineava con grande forza gli errori individuali della difesa, di posizionamento, quasi tecnici e tattici, il che sorprende abbastanza, no ragazzi? Filippo? Sì, però insomma ci sono sempre questi errori. Cioè, quel passaggio di Hakimi è incredibile, cioè, è imprevedibile per un allenatore. Io non voglio difendere Conte. Su tutti e tre i gol, quello lì clamoroso, però Sergio Ramos è un altro pianeta, un altro livello. Avete visto le dichiarazioni di Ramos sulla chiacchierata con Handanovic, no? Che Handanovic gli dice, noi vi avevamo studiato, e Ramos era tutto felice, e quindi dice, ci avete studiato e vi abbiamo fatto con lo stesso, no? E effettivamente tu, cioè, lì De Vrij se lo perde e non puoi, cioè, non ti, lo dice anche Conte, non puoi perdere. E su gol del 3-2 messi abbastanza male, messi in modo rivedibile. Sì, d'accordo, appunto, però appunto, cioè, se tu pensi i primi due gol, cioè, cosa fai? Non lo sai che Kroos mette la palla sulla testa di Sergio Ramos? Cioè, teoricamente è così, sì, può arrivare a Varane. L'ha fatto altre 99 volte. Soluzione numero uno, esatto. Ci sono dei rigori lì, cioè, lì Conte lo dice, no? Nell'intervento che avete mandato in onda prima, all'inizio, lo diceva, insomma, appunto, ma a me è piaciuta quella discussione tra il portiere e il giocatore avversario, no, tra Andanovic e Ramos, che dice sì, abbiamo studiato, dice, però semplicemente non abbastanza, insomma. cioè, sì, quindi ci sono degli errori e lì, e questo è strano sicuramente, cioè non, è sintomo di un, come si può dire, di una difficoltà. Sì, che non si capisce bene dove stia, ecco, questa difficoltà. Sì. Cioè ieri l'Inter poteva anche non prendere nessun gol, appunto, cioè, avrebbe dovuto. E poi aveva, ripeto, dal punto di vista proprio emotivo, aveva la partita in mano sul 2-2 e poi è riuscito a perderla. Sentiamo l'umore di chi ci ascolta. Andrea, buongiorno, da Treviso. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, guarda, vi faccio una premessa. Io sto lavorando, facendo la potatura in mezzo alle vigne nelle colline di Valdobbiadene, per cui insomma la mia giornata non è infittata lavorativamente da quello che è il risultato di ieri sera. Però ve lo dico, non sto lavorando col sorriso sulla bocca perché sono un tifoso, no? E quindi mi fa piacere che Filippo Maria Ricci abbia detto una cosa molto bella, abbia fatto delle critiche a questo Vidal, che doveva essere un fenomeno, lo spacca a centrocampo, quello che doveva spaccare il mondo, invece sta spaccando i risultati nostri, perché siamo sesti in classifica in campionato, siamo ultimi nel girone in Champions League, con il girone nettamente più facile degli ultimi due, e quindi insomma il fatto che il nostro allenatore non faccia un minimo di autocritica, che non ci sia veramente cioè, se questa soddisfazione, se abbiamo perso, abbiamo perso bene. No, è una cosa che da tifoso, da parte della squadra, insomma... È un po' brutta, non possiamo essere soddisfatti, ma capisco insomma il momento, capisco tutto, la sfortuna, la mancanza di Lukaku, però stiamo prendendo una media gol che non abbiamo mai preso nelle ultime 10 stagioni, penso neanche con Stramaccioni a 500.000 lire al mese, non 12 milioni di euro l'anno. Se c'è una cosa di Conte storica, no? È la grande attenzione. Le difese di Conte di solito, appunto, insomma, concedevano poco, appunto. Invece sia l'anno scorso che quest'anno forse ancora peggio, questo non sta avvenendo. Secondo quindi me non è il momento di dire vabbè, tutto a posto, tutto bene, perché sennò ma anche le viti vengono potate male e poi ci dovrebbe, sentiamo tutto un po' in colpa. Voglio avere sulla coscienza il prosecco. Valdobbiadene, se Conte lavora male in squadra, noi sappiamo poco a fine anno, per cui ne va del mio lavoro. Io faccio il prosecco di Valdobbiadene, uno spumante per festeggiare. Quest'anno noi interisti festeggeremo poco, come sempre, per carità, ma festeggeremo poco. Io l'ho fatto per il fatturato, non lo faccio per la squadra, ma mi viene da piangere, ragazzi. Io vi voglio bene, ma mi viene da piangere oggi. Meraviglioso, Andrea, torni a trovarci un po' più spesso, magari anche vi manderò una cassa, di vino, ma ce la devi portare, ce la devi portare tu, così chiacchieriamo. Ma verrei sulle ginocchia sui ceci a portarvele, vabbè. Non si chiudono in gabbia ancora. Chiediamo lascia passare in quest'Italia di zone rosse, bianche, gialle, verdi. Certificazione, c'è il modello, devo portare le casse di prosecco a tutti i convocati. È un'eccellente motivazione. Non faccio una piega. No, comunque sono d'accordo. Cioè, poi è chiaro che c'è tutta la chiaramente il trasporto sentimentale del tifoso, ma insomma che le cose non vadano bene, questo è evidente. E poi secondo me sulla difesa l'abbiamo fatto varie volte in questi giorni, anche un discorso secondo me di costruzione della rosa, in una rosa che è assolutamente competitiva, non è che cambio idea adesso, e quindi Conte deve fare risultato quest'anno, c'è poco da fare, è impossibile nascondersi, però dietro dal punto di vista dei marcatori puri qualcosa in più insomma, alla fine c'è il paradosso che c'è stata la possibilità di Bastoni e sei stato in emergenza. Hai schierato Kolarov in quel ruolo, non ieri sera. D'Ambrosio comunque è un adattato in quella situazione. Dall'inizio mi sono permesso di dire, ma Godin, io vabbè, ma problemi di bilancio, ma abbiamo tanti, c'è Bastoni, dall'inizio mi ero permesso di dire, ma Godin lo puoi mandare via con l'esperienza che ha Skriniar. Sì, ma poi anche se credi Skriniar, però comunque in una squadra che comunque soprattutto in questa stagione ha bisogno di avere rotazioni molto profonde, Godin è uno che l'anno scorso ti ha dato dimostrazione anche quando non giocava mai, poi è arrivato alla fine, era titolare e il suo te l'ha dato abbondantemente. Ma infatti in un è chiaro che il budget non è infinito, lì c'era soprattutto l'ingaggio che pesava, però ripeto, se tu credi in Skriniar allora è un discorso, però Skriniar sappiamo che era un po' sparito dai radar, poi in realtà aveva giocato, si è fermato poi per il Covid, ma inizio stagione ha giocato due partite, l'ha fatto anche piuttosto bene, se non sbaglio Benevento e Lazio, e quindi vedremo. Però in una rosa costruita senza badare a spese e con questa abbondanza, lì secondo me c'è un'area di miglioramento, come anche dal punto di vista della quarta punta c'è un'area di miglioramento, con tutto rispetto per Pinamonti, insomma, per quello che è il resto della rosa costruita. Mm-hmm. Detto questo, la rosa è di altissimo livello e questo significa che Conte addosso avrà tanta pressione. C'è poco da fare. Questo sì, è chiaro. Dimmi, sulla punta, guarda, ieri a pranzo ho incontrato Valdano e lui diceva ma all'Inter gli manca un attaccante. Cioè, non ti puoi presentare grandissimo. Ieri a pranzo ho incontrato Valdano, poi ho preso un pack con Burruciaga. Vabbè, lo sappiamo benissimo. Cioè, Filippo Maranisi frequenta purissima il society calcista. Vedi che anche Valdano. Dai, qua è un barrio, tutti nel quartiere, siamo tutti qua. Così hai capito. Si vede. No, hai capito. Grandi smargiassate di Filippo Maria Ricci. Mauro, buongiorno. Buongiorno, allora permettetemi una battuta subito. L'ascoltatore Andrea di prima ha detto che il suo lavoro non è stato inficiato, in vigna non è stato inficiato la prestazione dell'Inter, ma potrebbe essere stato il contrario, che la prestazione dell'Inter è stata inficiata da un passaggio in vigna, soprattutto di Conte, perché non ci ha capito assolutamente niente, ed è l'inizio dell'anno che è una squadra sconclusionatissima, senza né capo né coda, sempre fermi ad aspettare il pallone e a due all'ora. Guardate, io sono un tifoso interista ma simpatizzo Atalanta, mi sono guardato purtroppo la partita d'Atalanta dopo senza sapere il risultato e mi è sembrato di vedere col video registratore l'accelerata, cioè vedevi la stessa partita con i colori rossi anziché bianchi, ma i nerazzurri andavano al doppio pur avendo perso. L'Atalanta comunque viaggiava a una velocità doppia, poi ha trovato una squadra nettamente più forte perché il Real Madrid è in minimi termini. E ci giustifichiamo sempre con avremmo potuto, avremmo dovuto, ma di gioco onestamente non ce n'è, siate onesti, ma non ce n'è, monocorde, non c'entra, io non è che su quell'altro versante, poi da Atalanta parliamo dopo la borsa che va tra poco. Sì, però... ma per oggi Gasperini ha cambiato atteggiamento, ha provato con le due punte, quest'anno Gasperini, secondo me ha modificato un pochino la prova dell'Atalanta. Adesso approfondiamo il discorso Atalanta che è interessante con Paolo Tomaselli subito dopo la borsa, però volevo chiudere appunto con Filippo, non è che dall'altra parte ieri sera si è visto una squadra che sta benissimo, che ha... cioè che va veloce, cioè che mi sono sembrati del Barça, due squadre molto convalescenti. Il Barça è venuto a Torino, ha fatto la sua partita, ha vinto, no? Il Barça ha fatto 2 punti su 12 in Liga, cioè, capito? Lo stesso Siviglia addirittura ne ha fatto 1 su 12, le squadre spagnole non stanno bene, per quello è ancora più preoccupante. Se tu avessi perso 3-2 con un Madrid, capito? Il Madrid di Cristiano Ronaldo, facciamo altri discorsi. Questo è un Madrid che hanno vinto i resti dello Shakhtar a Valdebebas, avevano chiuso il primo tempo 3-0. Shakhtar che ieri ha perso 6-0, 6-1. Ha preso il cappottone. Erano venuti qui con 11 assenti. Ma lo stesso Shakhtar che abbiamo visto contro l'Inter mi è sembrata davvero pochissima roba. A Valdebebas ha dominato. Questo è un Madrid vulnerabile. È da lì che nasce il rimpianto. Perché non è che stai parlando appunto di un grande Madrid, dal punto di vista comunicazione non puoi neanche dire dopo ieri sera tutto bene, è una tappa del percorso di crescita, abbiamo perso di qua di là, voglio vedere chi viene quando fa l'esempio, dice non sono tante le squadre che sono venute qua, e dico guarda, 2 settimane fa ti ho detto lo Shakhtar che con 11 assenti, primo cambio al minuto 85 perché in panchina quel poveretto c'aveva suo fratello, zio, alla fine sono riusciti a portare a casa una vittoria in maniera incredibile, rocambolesco, gol annullato nel finalissimo, però in compenso hanno portato a casa i 3 punti. Ciao Phil, grazie, ciao, alla ragazzi, prossima, ciao, un abbraccio, ciao. Borsa che siamo in ritardo ma torniamo subito. Buongiorno signori, ma poi alla fine perché l'Inter ha dato via Godin? Io ancora oggi non l'ho capita questa mossa. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Questa è una squadra che c'era troppo divario, andavano troppo più forti di noi. E noi questo l'abbiamo già visto purtroppo in campionato, non siamo più la squadra così intensa, capace di giocare su intensità molto alta, abbiamo modificato anche le nostre un po' caratteristiche e quindi è anche giusto riflettere contro questi avversari come comportarci. Abbiamo perso una partita importante, ma non era decisiva. Meno male abbiamo ancora delle partite da fare meglio da domani e dopodomani, pensare alla partita dell'Inter. Ci serve per imparare, per capire che in questa competizione, se non alzi la intensità dal primo minuto, non riesci a essere in gara. Quando senti analisi così lucide, spietate e perfette come quelle di, soprattutto di Gasperini e poi di Zapata, diventa difficile quasi aggiungere altro, no? A differenza del discorso che faceva prima a proposito dell'Inter di Conte. Ciao Paolo Tomaselli. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao, ne hai scritto per il Corriere, ma mi sembra perfetta la lettura di Gasperini. Cioè l'Atalanta non ha più intensità, l'ha detto anche Zapata. Così è una squadra normale e lo è già da un po'. Sì, una cosa che ha detto ieri sera Gasperini anche, che mi sembra da sottolineare, è che questa Champions compressa, in cui non si gioca ogni 15-20 giorni ma si gioca tutte le settimane, cambia le carte in tavola soprattutto per le squadre medie come l'Atalanta, quindi è un'ulteriore novità in una stagione che ci porta tante novità, la mancata preparazione, un sacco di cose, quindi forse un po' di pazienza in più anche da chi osserva è necessaria. Detto questo, forse lui, appunto, sapendo che l'Atalanta non era nelle migliori condizioni, ha voluto un po' bluffare, ha giocato comunque con Zapata e Muriel, ha voluto cercare di sorprendere, di vedere se le debolezze ipotetiche in difesa di questo Liverpool fossero reali e è saltato tutto il banco. Sì, a Liverpool bastava accelerare, l'Atalanta è incapace di difendere la sconfitta. Che idea ti sei fatto, Pierluigi, su questo momento? Ovviamente ho visto solo gli highlights stanotte fra un Wisconsin un Ohio, sì. E quindi ho visto gli highlights, ho letto i giornali. Sì, mi sembra che ci sia stato questo elemento di, non voglio dire di sopravvalutazione di se stessi, perché per carità non credo che sia questo, però insomma se l'è giocata forse un po' troppo alla pari. Contro un'avversaria che ieri ha trovato la partita perfetta, dove è andato tutto bene. Ma non è la sensazione che loro possano vivere soltanto così? Cioè, dici l'Atalanta? Beh, quello che dice Gasperini è molto interessante, no? Sul fatto che la squadra si sta un po' snaturando, sta trovando una nuova pelle. Cioè, è un tentativo di evoluzione che però nelle serate storte, ieri è stata sicuramente una serata storta, rischia di essere un limite in questo momento, nel senso che non sei la cosa nuova che in qualche modo vorresti riuscire a diventare, cioè una squadra capace di manovrare di più, di gestire di più, di abbassare anche il ritmo in certi momenti, ma non hai più nemmeno la furia e l'intensità che avevi prima. Ecco, in questo momento l'Atalanta è un po' la via di mezzo, per quello che ho visto, per quello che ho capito, ripeto, soltanto guardando gli highlights di una partita di ieri, onestamente dominata dal Liverpool fin dall'inizio. Sì, Paolo Tomaselli invece l'ha vista tutta, da lì l'ha raccontata al Corriere della Sera e anche a noi, quindi credo possa confermare quello che dice Pierluigi, no Paolo? C'è un'Atalanta che è sgonfia e non riesce a essere... Sì, poi c'erano anche delle assenze e comunque anche per provare a mutare pelle di base ci vuole l'intensità e anche la cattiveria. È un'Atalanta che ieri, se non sbaglio, ha finito senza ammoniti, insomma la partita è durata molto poco. L'impressione anche che il Liverpool, se avesse voluto ulteriormente, come ogni volta dice, che accelerava andava in porta, Paolo, però esatto. A me sembra, per dirla onestamente, una squadra che ha poca benzina, cioè che non ha intensità fisica, e l'Atalanta senza quell'intensità fisica diventa anche una squadra che si espone a brutte figure, perché è incapace di vivere diversamente, certo. Da così, no Paolo? Ma sì, sono assolutamente d'accordo con te, d'altronde all'interno di una stagione ci sono anche i picchi di forma e questo è sicuramente un momento di down per l'Atalanta, e credo che sia anche fisiologicamente come si dice, atteso, perché sono andati avanti fino a metà agosto in un certo modo, e è chiaro che adesso un po' si paga, insomma. Certo che a guardare dal buco della serratura Inter-Atalanta del prossimo weekend, Pierluigi, un po' di curiosità viene, e viene soprattutto molta a quelli in bocca al Milan. Molta. E poi questa è una stagione che è una maratona con una quantità di variabili, e dice giustamente Paolo, cioè comunque anche il peso di un calendario così intasato dopo il lockdown, quindi alla fine della passata stagione, praticamente senza vacanze, senza momenti di riposo, incide. Quindi ci può anche stare che si stia un po' pagando l'eccesso di fatica della parte finale della stagione. Uno potrebbe dire, ma il Milan allora, però il Milan alla fine si è riposato, non ha avuto le coppe europee, l'Atalanta invece veramente ha vissuto anche l'esperienza di Lisbona, che è stata forse anche un po' frustrante perché aveva illuso e poi non è andata come si sognava a un certo punto. Quindi no, io penso che tutto sia possibile. Io penso che la dimensione dell'Atalanta sia quella di una grande squadra che se può lottare, arrivo a dire, che non sto in una bestemmia, pure per lo scudetto anche secondo in me. Una stagione così strana. Però certo, insomma, ma bisogna vedere figura quanti... così fa effetto, ecco. Bisogna vedere quanta strada lasci, quanta strada, certo, perdi in questo momento negativo, perché per l'appunto, per chiudere con Paolo Tomaselli, il limite dell'Atalanta è questo: nelle giornate storte non fai 1-1, perdi 4-3, capito? Cioè, è una squadra... D'altronde la grandezza dell'Atalanta però è derivata anche dagli elementi che adesso mancano, e pensare, come si dice, di criticarla fino in fondo su questo, e credo che non sia corretto, perché comunque l'impianto che ha portato l'Atalanta ad essere quello che è stata negli ultimi 2-3 anni è ben preciso, e però ci vuole appunto la benzina per tenere su tutto, e credo che tornerà forse tra un mese, quando ci saranno le partite chiave, soprattutto quella con l'Ajax, che arriva all'ultima giornata del gironcino e sarà quella fondamentale. Vediamo anche se arriva un Ilicic accettabile a quel punto lì. Detto che è bellissimo vederlo in campo, eccetera, eccetera, però vediamo se arriva un Ilicic più vicino a quello che ci ricordiamo. Vediamo Miranchuk. Siamo molto curiosi di vederlo con un po' di continuità. Vediamo un po' tutte queste cose. Ciao Paolo, grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao. Ci fermiamo, ti proporrei, Pierluigi, per il traffico, sì, e poi facciamo un salto negli Stati Uniti, perché siamo tutti molto curiosi. In vot partie in ciapà, vot gol in contropè, l'equilibrio, Conte, l'equilibrio. E va bene, ciapà su e porta a casa. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. La serataccia di ieri, Pierluigi, ci ha fatto anche un po' perdere il sonno, ma buono così, perché ci siamo incollati tutti. Dormito tre ore. No, la sensazione. Allora, ci tre vediamo? Ore e non ho capito niente. Anzi, c'è qualcuno che mi. Ma il Michigan adesso. Ce l'ho. Eccolo qua, Simone. Ciao. Sandri, buongiorno. Ciao Simone. Buon pomeriggio. Non ha dormito che neanche quelle tre. Michigan. Io non ho dormito neanche con le tre, esatto. Il Michigan è una bella domanda, perché il Michigan adesso è vicinissimo, perché hanno incominciato a contare i voti per poi, questi famigerati voti per posta, e adesso si è molto avvicinato Biden. L'entourage di Biden dice che loro sono convinti che alla fine vinceranno il Michigan. Ovviamente Trump dice che secondo lui l'ha vinto lui. Devo dire che però, per essere in perfetto tema di questo 2020 surreale, non potevamo chiedere uno scenario più da incubo di quello che è successo, perché un conto era avere una vittoria netta, un conto è avere una vittoria così striminzita da parte di chiunque vincerà, ma soprattutto con delle probabilissime, se non sicure, vie legali che verranno prese da chiunque non trionferà alle urne, per cui ci si aspettano dei giorni veramente, secondo me, veramente difficili sotto tanti punti di vista. Sì, la sensazione è che ci abbiano preso un po'. Wisconsin, Nevada, sì, e Michigan 2,70 2,60-2,68. tipo partita di basket con 200 infatti, punti in più. Ma guarda, sai qual è la sensazione? Che è chiaro che di elezioni americane si parla su Radio 24 in tutto il mondo, non è che magari neanche è caso di farlo tantissimo qui, però la sensazione è quella che ci sia proprio un tifo da derby anche in America, no? Non ho mai vissuto un'elezione presidenziale americana così sportivamente connotata, fatemi dire, Simone. Sì, assolutamente, con anche diversi sportivi anche di nome che si sono schierati, ovviamente leghe tipo la NBA, soprattutto la NBA che ha dato un input importante anche alla corsa al voto per dei primi votanti, per esempio in alcuni stati che potrebbero fare la differenza, come per esempio la Georgia o lo stesso Wisconsin. Ci sono anche sportivi che hanno supportato Donald Trump, perché sembrano quasi che tutti gli sportivi supportano tipo Biden, invece tipo Tyson, tipo The Golden Bear Niklaus, tipo Tiger Woods, che anche se non l'ha detto pubblicamente, Brett Favre per esempio, che ha fatto una campagna in Wisconsin. Il discorso del tifo da stadio è un paragone assolutamente calzante in questo caso, ed è un paradosso, soprattutto secondo me, se vogliamo fare anche il paragone tra chi sono i giornalisti sportivi che quando non azzecchiamo magari i pronostici e i sondaggisti che sono pagati centinaia di milioni e non ne azzeccano una, e il loro lavoro è questo. Bravissimo. Allora forse avrei qualcosa quando incominciano a criticarci perché non ne azzecchiamo un pronostico, forse allora dovrei ma infatti posso dire, sì. Io voglio fare il sondaggista. Ragazzi, il sondaggista capisco che sia problematico, perché mi pare chiaro che soprattutto da una parte non si dice esattamente quello che si vuole votare, questo mi pare abbastanza evidente, perché sennò, però sono lì proprio per interpretare anche questo aspetto. Ma mi sembra siano diventati un po' sondaggisti tifosi, Pierluigi. Però notiamo che il problema del sondaggista, almeno il giornalista sportivo ha una costante scambio con la realtà, nel senso alla fine costantemente ci sono partite, invece i sondaggisti ci accorgiamo di quanto sono sbagliati soltanto alle elezioni. Pensiamo a tutti i sondaggi che ci sono costantemente sul gradimento dei politici e poi valutiamoli con quelli delle elezioni e forse... Ma vedi che parte uno che ha capito tutto, no? Perché sondaggista, cioè ci presentiamo ogni 4 anni, diciamo 4 cazzate e poi ce la caviamo via così. Invece noi ci abbiamo due partite a settimana come minimo. No, devo dire che qua il sistema è complicatissimo, già un sistema elettorale, per carità, assolutamente è quello, no? che consente a chi ha meno voti comunque di vincere, un po' come succede in Inghilterra potenzialmente, no? Sai che anche in Inghilterra ci sono i collegi, per cui tu puoi vincere magari 100 collegi di un voto, poi ne perdi uno di 100.000, hai 99.900 voti meno dell'altro, ma stai avanti 100-1. Quindi questa cosa qui è un po' per noi abituati a contesti un po' più dal voto proporzionale, storicamente in Italia fa un certo effetto. Però insomma le regole sono queste, in più c'è stata tutta la complessità del voto per posta, c'è stato il Covid, perché dal punto di vista, guarda, dal punto di vista dell'entertainment, cioè di chi si gusta lo spettacolo come se fosse un derby Milan-Inter, è veramente appassionante. Speriamo. Il problema è che poi Milan-Inter finisce e si parla da partita dopo, qui dura 2-4 anni. No, ma qui speriamo soprattutto, ci credo poco, che ci sia da parte dei due contendenti un atteggiamento, cioè arriva un momento in cui bisogna mettere in cima il senso di rispetto della democrazia di un paese, ma immagino che insomma non sarà così. Speriamo che... Ecco, questo lo chiederà Simone. Ci sono state manifestazioni, c'è un rischio di tenuta, c'è un rischio di che gli ultra scendano in campo sul serio. Il rischio c'è, cioè, io devo dire che sono negli Stati Uniti da 30 anni, non ho mai visto quello che è successo, a parte non ho mai visto tante cose che sono successe nel 2020, ma non ho mai visto negozi chiusi o la polizia pronta nella serata dell'election night. Questa è una cosa che non si vede negli Stati Uniti, quindi questo è il primo punto di vista. I sondaggisti neanche da questo punto di vista hanno aiutato, perché molti che si aspettavano un Trump completamente vicino alla resa si svegliano sapendo che Trump ha preso 3 milioni di voti di più rispetto al 2016, è vero? E che è qualcosa di veramente folle se ci pensiamo, per cui non aiuta neanche la tenuta, secondo me non è neanche la tenuta sociale del paese, no. Questo tipo di expectation che c'erano, sì, diciamo che sicuramente non è una una cosa da chiaro, cioè chiaro. Una cosa da mettere sicuramente in certo, da mettersi in testa che insomma saranno giorni complicati. Simone, dormi un po', poi ci sentiamo nei prossimi giorni naturalmente. Grazie. Abbraccio, grazie Simone Sandri dagli Stati Uniti. Wisconsin. Oggi linea che era scritto, poi lo scopriamo. Lo spieghiamo noi. Grazie Pierluigi, a domani. Claudia Schiattone, Roberta Frisani, ciao a tutti. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani, enjoy! Saluti!